Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. Siamo in diretta dal Vinitaly, padiglione 12, stand 5. Grazie anche a tutte le persone che sono fuori, che saluto. Ascoltatori, immagino, della radio. Parleremo anche di vino in una giornata importante comunque per l'economia italiana, perché ancora non c'è chiarezza. Domani immagino che ne avremo di più sul documento economico finanziario del governo. Il testo non è ancora chiuso, restano i nodi dell'IRAP e della cosiddetta curva dell'IRPEF, quindi la riduzione dell'IRAP quest'anno prevista tra il 5 e il 10% e la cosiddetta curva delle detrazioni IRPEF, quella che dovrebbe poi portare i famosi 80 euro promessi da Matteo Renzi a maggio, entro maggio. Questo nel giorno in cui ha parlato, in realtà ha scritto più che parlare, il Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi sul tema del cosiddetto quantitative easing, ossia della possibilità che la Banca Centrale Europea possa fare un po' come ha fatto per anni la Federal Reserve, stampare moneta. Draghi preferirebbe non comprare titoli di Stato ma comprare titoli emessi dai privati. Su questo c'è qualche correzione, ha detto attenzione, è un concetto teorico, la pratica richiede tempo, anche se continuano le informazioni e le indiscrezioni soprattutto di una Banca Centrale Europea che starebbe lavorando a un piano da 1.000 miliardi di euro l'anno. Sarebbero circa 80 miliardi di euro al mese, quindi un piano anche più massiccio, stando alle indiscrezioni, di quello attualmente utilizzato dalla Federal Reserve, che stampa moneta attualmente per circa 65 miliardi di dollari al mese. Qual è l'obiettivo? So che può sembrare paradossale, fare risalire l'inflazione. I prezzi al consumo sono troppo bassi, alcuni paesi dell'area euro sono praticamente, anche se non tecnicamente, in deflazione, la Spagna lo è anche tecnicamente. L'Italia lo è praticamente, se leviamo la componente petrolio e energia i prezzi sono fermi o in calo, e quindi la deflazione è una minaccia per la Banca Centrale Europea tanto quanto lo è l'eccesso di inflazione. Perché? Perché ritarda gli acquisti, uno si aspetta che i prezzi siano in calo, posticipa tutti gli acquisti, ma soprattutto fa pagare di più in termini reali ai paesi debitori. Lo abbiamo già ricordato, se tu hai un debito di 1.000 euro e hai un'inflazione, poniamo, del 10%, dopo un anno il tuo debito reale è del 10% più basso, è di 900 euro. Se tu hai una deflazione, immaginando per assurdo al 10%, dopo un anno il tuo debito in termini reali è più alto, vale 1.100 euro. Ecco il perché delle preoccupazioni sulla deflazione, ma parleremo anche una volta tanto, oddio, alcuni settori in Italia si stanno riprendendo. Un settore che non ha mai avuto crisi è stato quello del vino. Siamo appunto all'edizione 48esima edizione del Vinitaly. Il Presidente della Fiera mi sta già correggendo, bene, adesso ci arriviamo, 48esima, vi ho anticipato di 5 edizioni la prossima, 48esima edizione del Vinitaly, edizione di successo, anche perché, dicevo, questo è un settore che non conosce crisi, non l'ha conosciuta come fatturati nemmeno nel 2009, l'anno peggiore, grazie soprattutto, tanto per cambiare, all'export. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, rapidamente le altre notizie in breve. Continua il botta e risposta tra il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea. Oggi la Lagarde ha detto, la Banca Centrale Europea, se vede rischi di deflazione, di prezzi in calo, deve tagliare i tassi. La Lagarde sa però che i tassi sono ormai praticamente allo zero, tagliare lo zero è difficile. Certo, li puoi portare in negativo, per cui diventa un elemento negativo indebitarsi, prestare soldi diventa vantaggioso indebitarsi. Mi sembra che siamo però a un livello ancora teorico. Dicevamo di Mario Draghi, che ha detto attenzione, occorre risanare i conti con una spesa più efficiente, non bisogna vanificare gli sforzi fatti, ma insomma l'attenzione è tutta sulla Banca Centrale Europea, su cosa ha intenzione di fare, sullo stampaggio, come lo chiamiamo noi, di moneta. Oggi anche il falco Hans Widmann, che è il presidente della Bundesbank, della Banca Centrale Tedesca, nonché consigliere della BCE, ha detto, insomma, stiamo ragionando su vari scenari, la deflazione è un'ipotesi, Se il quadro dei prezzi peggiora molto, saremo obbligati a fare interventi non convenzionali. E lo dice un falco, lo dice il numero uno della Bundesbank. Vuol dire che, tradotto, il rigore, l'eccesso di rigore europeo senza crescita sta portando un tale calo dei consumi, un tale calo dei prezzi, che perfino i tedeschi si sono resi conto che andando avanti così si va a sbattere tutti, non solo noi. E il botta e risposta oggi è anche però tra Francia e Germania, o meglio tra Germania e Francia, nel senso che il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, altro falco, insomma, è un mondo di volatili in Germania, dicevo altro falco, e ha detto Schäuble: beh, Parigi conosce benissimo le sue responsabilità. Sapete che Parigi ha fatto sapere che col nuovo presidente del Consiglio vorrebbe avere più margini sul deficit, non ce la farà nemmeno quest'anno arrivare al 3%, vuole avere 2 anni in più di tempo, l'Europa è contraria, e Schäuble ha detto la Francia conosce le sue responsabilità. L'ho detto nel giorno in cui in Germania la produzione industriale ha fatto un altro più 0,4% a febbraio, è il quarto rialzo consecutivo mensile, rispetto all'anno prima siamo al più 4,8%. È comprensibile che la Germania sia poco vicina ai problemi degli altri paesi europei con questi tassi di crescita. Mi piacerebbe vedere però quale sarebbe la posizione dei falchi tedeschi se fossero loro al posto della Francia. Abbiamo già visto nella vita queste metamorfosi, falchi che diventano colombe, colombe che diventano falchi. C'è solo un volatile che non assume mai altre dimensioni, vabbè. È quello che vola basso ed è quello presente in Grecia, dove metà delle famiglie vive con meno di 800 euro al mese. Già abbiamo diffuso la settimana scorsa dati drammatici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'incremento della mortalità negli anziani e anche nei bambini in Grecia, dovuti a questo modo, a mio avviso, ragionieristico. Continuano a scrivermi i ragionieri. Io non ce l'ho con i ragionieri, che fanno un lavoro bellissimo. Quando dico ragionieristico, diciamo meccanicistico, tecnicistico, non voglio insultare i ragionieri, voglio insultare l'impostazione ragionieristica di un'Europa. I ragionieri fanno un lavoro bello, importante, che ha tutto il nostro rispetto. Ancora due dati. Allora, l'Istat oggi conferma che il potere d'acquisto delle famiglie italiane nel 2013 è sceso dell'1,1%. Avevamo capito anche noi che qualcosa fosse andato male anche l'anno scorso. Pensate, per dare un'idea, che il potere d'acquisto delle famiglie italiane è arrivato ai livelli del 1995. Anche qui voi direte: cosa è successo nel 95? Nulla, è che da quando lo misuriamo, è il 95, non è mai stato così basso, per cui tutti i dati macroeconomici ci riportano all'inizio delle misurazioni. Il problema non è 95-94, è che non avevamo mai visto un potere d'acquisto così basso, e visto che qua parliamo di vino, l'impatto sui consumi interni si è fatto sentire anche nel mondo del vino e in generale della grande distribuzione. Le buone notizie per lo Stato, forse non per i contribuenti, arrivano invece sempre dall'Istat per il mese gennaio e febbraio, dove le entrate hanno fatto più 1,2%, le entrate fiscali, a 61 miliardi e 780 milioni di euro. L'IVA ha gettato il 4,6% in più nei primi 2 mesi e con un 7,5% in più soprattutto sui consumi, magari anche per quello che sono leggermente depressi. Nulla di nuovo invece sul fronte all'Italia, ed è l'ultima notizia in breve. Etihad fa sapere che il negoziato prosegue, all'esame sono i termini commerciali, ma il numero uno della compagnia di Abu Dhabi, si chiama James Hogan, ha detto che ha ricevuto ampio mandato per chiudere la trattativa, quindi, e sciogliere gli ultimi nodi. Quindi a breve, diciamo, all'Italia dovrebbe diventare, no, non voglio dire araba, però dovrebbe avere il 50% del capitale in mano ad Abu Dhabi. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora, chi vuole venire a visitarci, ripeto, padiglione 12, stand E5, c'è un leggerissimo caldo in studio e anche fuori, soprattutto per chi è arrivato vestito in maniera autunnale. Allora, il commento era biografico, parliamo di questo Vinitaly, Vinitaly da record, non lo dico per enfasi, nel senso che tra ieri e oggi i visitatori hanno battuto anche le edizioni precedenti, Vinitaly da record, anche se i problemi del settore, per quanto un settore messo molto bene, non mancano sul fronte consumi interni, ma anche sul fronte concorrenza più o meno sleale. Allora, presidente della Fiera di Verona, Ettore Riello, buonasera. Buonasera a tutti. Alziamo leggermente il microfono di Riello, grazie. Numeri da record, dicevamo, nei primi due giorni, ieri giornata dove era immaginabile avere tantissimi visitatori, oggi invece che è dedicata più agli operatori di sistema, agli operatori del mondo vitivinicolo, forse era meno immaginabile. Come mai? Perché siete bravi, lo sappiamo, perché avete fatto una bellissima fiera, però andiamo oltre, diciamo, l'elemento geografico. Beh, sentirti dico veramente dico lo sgomento, perché c'è una panoramica complessiva che in realtà colpisce anche in parte questo mondo. La grande differenza è che era un mondo forse molto proiettato sul mercato nazionale e il grosso sforzo che è stato fatto per andare all'estero invece oggi sta dando i frutti, ma il mercato italiano che soffre così è veramente un elemento fortemente negativo per le nostre opportunità di crescita, perché sono le crescite migliori, più facili, che consentono poi di consolidare al meglio quello che è con la capacità. Certo che tutto l'investimento che è stato fatto per aiutare questo settore, che è fatto di una grande frammentazione, ci sono più di 384.000 aziende che producono vino, 63.000 che anche lo imbottigliano, quindi è frammentato in una maniera straordinaria, per cui andare all'estero è difficile. Noi stiamo registrando un successo legato proprio a come abbiamo investito all'estero e per l'incoming, quindi questo sta migliorando. Non posso negare che l'agroalimentare è un settore che sta meglio di altri, c'è comunque delle crescite intorno al 7% verso l'estero, e proprio il vino e l'olio invece superano questo 7%, dando quindi una fiducia aggiuntiva. Non vorrei però banalizzare che tutto è bello e tutto è semplice, perché poi qui c'è un muro di lamento, di fastidio, di impossibilità ad andare avanti con una burocrazia che sta veramente triturando tutto. È ora di piantarla, perché dai controlli inutili, dai meccanismi di come ci si deve muovere, credo che veramente la politica debba mettere un freno. Forse servono meno deputati e meno onorevoli, e così tagliamo un po' di attività inutili. Più vignaioli. Senta Riello, tra l'altro il problema della burocrazia nel settore vitivinicolo, come in tutto il mondo agricolo, ahimè, è anche un problema di burocrazia europea, cioè si va a sommare delle volte la burocrazia italiana, adesso ne parleremo, con la burocrazia europea che ogni tanto si inventa, lo dico con il massimo rispetto, ma si inventa norme, giusto, sembra un po' quello che ha bisogno di dimostrare che esiste e di giustificare lo stipendio. Però vorrei restare sui Vinitali, perché pochi sanno forse che Vinitali non è solo la fiera che si tiene ogni anno a Verona, voi svolgete durante il resto dell'anno un'operazione a mio avviso molto importante, portate i produttori nei mercati esteri, siete appena tornati dalla Cina con il marchio Vinitali. Ma dico, questo è un tema che possiamo sviluppare, perché il prodotto del Vinitali è nostro, quindi noi non solo diamo gli spazi ma facciamo anche la segreteria organizzativa. Quindi durante tutto l'anno abbiamo una serie di iniziative proprio volte a migliorare la presenza all'estero. Quindi noi portiamo gli operatori e anche facciamo una serie di iniziative per portare invece i grandi buyer, i grandi riferimenti qui a Verona, perché credo che questo lavoro evidentemente debba lavorare su questi due fronti. Un pensiero su quella Europa, credo che in realtà il politico italiano porti normalmente sempre un concetto molto estensivo della normativa europea. Non c'è nessuno altro paese europeo che ha le norme così strette come ce l'abbiamo noi. Parlavo con gli operatori dell'olio spagnolo, non hanno tutti i requisiti che abbiamo noi, quindi forse dobbiamo essere un pochettino più equilibrati e dare veramente un aiuto a questo settore, ma non un aiuto, anzi mi voglio correggerlo, metterlo allo stesso livello di fattore competitivo degli altri. Ecco, forse ci manca questa grande ricchezza. Un ultimo tema, voi ieri avete annunciato la presenza del ministro Martina, del commissario all'Expo Giuseppe Sala, ieri c'è stata una carrellata, chiaro, ci sono anche le elezioni europee, abbiamo visto Paolo De Castro, certo, Alfano, insomma tutto il mondo della politica, però avete annunciato una cosa importante che riguarda la presenza del Vinitali all'Expo. Allora voglio essere molto chiaro, il Vinitali l'anno prossimo si terrà a Verona ad aprile, sì, marzo-aprile. E poi cosa succederà all'Expo? Vorrei correggerti, non è che noi siamo organizzatori, abbiamo insieme ad altri attori la responsabilità di realizzare il padiglione del vino, che verrà realizzato nell'area dedicata all'Italia di fronte al Palazzo Italia, un padiglione di circa 2000 metri quadri dove per 6 mesi Vinitali sarà impegnata anche in collaborazione con gli altri attori che poi parleranno anche dopo di me, perché insieme dobbiamo costruire un palinsesto che vivrà per 6 mesi. È una grandissima opportunità, unica credo, perché abbiamo il prelancio che potrebbe essere il Vinitaly Italia che facciamo qui a Verona, poi c'è l'Expo e credo che in quel contesto lì potremmo avere veramente, se facciamo squadra, se mettiamo insieme le grandi tradizioni, le storie, le conoscenze e lavoriamo insieme, credo che possiamo avere un bel risultato. Già che ci sono, forse per la prima volta sarebbe opportuno che ci fossero delle regole precise che da Roma ci danno una concentrazione delle risorse proprio sull'Expo 2015. È ora di finirla, di avere interventi a pioggia, un po' via Camera di Commercio, un po' via ICE, un po' via... Quindi forse per una volta che abbiamo un obiettivo unico, che è l'Expo 2015, concentriamo le risorse e facciamo veramente un bel lavoro. Beh, l'augurio, noi da sempre facciamo una battaglia sulle risorse concentrate, certo, sulla politica delirante per esempio nel turismo che è in mano alle regioni, si figuri se non siamo d'accordo nell'avere un unico canale che intervenga con forza. E grazie al presidente di Verona Fiere, quindi anche del Vinitaly. Abbiamo altri 2 giorni, venite pure, vi aspettiamo tutti. Sì, sì. Grazie anche per questo spottone gratuito finale, grazie al presidente del Verona Fiere del Vinitaly, Ettore Riello. Allora, alcuni dei temi li abbiamo già anticipati col presidente del Vinitaly della Fiera di Verona. Ringrazio per averci raggiunto negli studi caldissimi di Radio 24 qui al Vinitaly. Da un lato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi, buonasera. Buonasera. Grazie anche al presidente di Federvini, che è la parte di Confindustria che si occupa proprio del settore vitivinicolo, ma non solo, anche in generale del mondo cosiddetto del beverage, Lamberto Valerino Gancia, buonasera anche a lei. Buonasera, buonasera a tutti. E grazie anche a chi rappresenta la Fede Distribuzione, che è un tema che a me interessa moltissimo, al Vinitaly, Alberto Miraglia, buonasera anche a lei. Buonasera. La scheda rapidamente e poi il commento del presidente Confagricoltura, perché dicevo che ahimè il mondo dell'agricoltura e quindi anche del vino vive la burocrazia italiana, ma si becca pure quella europea. Il vino italiano è più forte della crisi, grazie soprattutto all'estero, dove le nostre bottiglie sono sempre più apprezzate. Nella tradizionale indagine, Mediobanca analizza i preconsuntivi 2013 delle 111 principali società del settore. Ne emerge un aumento del fatturato del 4,8%, in controtendenza rispetto al calo dello 0,3% del manifatturiero e al modesto più 0,3% delle industrie alimentari. Sempre più protagonista l'export, più 7,7%, mentre in Italia i ricavi sono saliti dell'1,8%. E lo spumante brinda, con un più 10,3% delle vendite all'estero. Ma dov'è diretto il vino italiano oltre confine? Lo scorso anno, poco più della metà delle nostre bottiglie sono state assorbite dall'Unione Europea, con le vendite salite del 9,2% sul 2012. Gli Stati Uniti si confermano il primo partner commerciale dell'Italia del vino, in valore, oltre 1 miliardo di euro, a più 7%. Leader per quantità resta la Germania, con quasi 6 milioni di ettolitri, per una spesa di 1 miliardo. Terza piazza per il Regno Unito. Tra i mercati europei è quello che ha visto il maggior aumento in valore, più 15,4% a 620 milioni. Andamento altalenante in 2 paesi a cui l'Italia del vino guarda con interesse, ovvero Russia e Cina. Sotto al Cremlino la quantità è scesa del 22%, mentre il valore ha fatto un più 14% a 114 milioni. Dentro la grande muraglia, poi, flessione sia per i volumi, meno 33%, che per il valore, a 74 milioni. Infine, il vino piace anche alla borsa. Dal gennaio 2001, l'indice del settore vitivinicolo è cresciuto del 225,7%, ben al di sopra del più 62%, segnato dai listini mondiali. Ma qui il nostro paese è clamorosamente assente. Delle 46 società produttrici di vino quotate in borsa, nessuna ha passaporto italiano. Allora, come raccontava la nostra scheda, qualche ritardo c'è, visto che si parlava di borsa, mi stanno scrivendo gli ascoltatori, ti sei dimenticato la borsa, sei già ubriaco. Allora, è vero che mi sono dimenticato la borsa, non è vero perché al Vinitaly non bevo mai, al Vinitaly, non dopo il Vinitaly. Allora, Telecom Italia più 1,90, Pop Milano più 1%, Fiat più 0,90, e invece sul fronte opposto Jux meno 3,15, Monte dei Paschi meno 2,50, Pirelli meno 2,12, Pop Emilia Romagna meno 2% come Mediolanum, Mediobanca perde l'1,80%, Unic ha perso, la borsa ormai ha chiuso, Unicredit meno 1,70 come Prismian, l'ex Pirelli Cavi, Finmeccanica meno 1,6 come Azimut e Ubibanca. Complessivamente l'indice perde lo 0,80%, con Parigi che perde l'1% e Francoforte peggio l'1,90%. Presidente di Confagricoltura Mario Guidi, dicevamo, qui c'è un tema dei consumi che già toccava il dottor Riello, il presidente Riello, un tema di mercati, perché appunto l'America va bene, l'Europa classica va bene, sulla Cina e sulla Russia soprattutto qualche problema c'è, ma c'è una cosa che mi fa impazzire: l'Europa sta decidendo di modificare la normativa che permette a chi ha il diritto di vite ma non sta producendo, adesso lo spiego in maniera un po' banale, tu puoi avere il diritto a vitare, non utilizzarlo, però in questo momento lo puoi vendere a qualcun altro che vuole produrre vino, per cui io posso vendere un ettaro, 10 ettari, 20 ettari a chi me li chiede, lo vendo tra privati. Ecco, tra poco tempo finirà questo diritto, bisognerà chiedere un'autorizzazione burocratica a Bruxelles e poi al governo nazionale, e sarà impossibile vendere i diritti tra produttori. Questo l'Europa dice perché tanto Francia, Italia e Spagna producono sempre meno. Noi abbiamo fatto notare che se un domani dovesse arrivare un boom di domanda cinese e indiana nel vino, i tempi vogliono dire 5-10 anni per arrivare alla produzione. Ma perché l'Europa si mette a regolamentare una cosa che funzionava benissimo in Francia, in Italia, in Spagna, in Portogallo, i diritti di diciamo sfruttamento del vino? Prego. Bella domanda, ce lo stiamo chiedendo anche noi, soprattutto dopo che stiamo entrando nel merito di questo nuovo regime di autorizzazione. La rispiego così: l'Europa vuole controllare le superfici vitate a sua disposizione. Prima lo faceva con un regime privatistico, affidando alla privata gestione il tema dei titoli, oggi passa a un regime autorizzativo. Significa che queste autorizzazioni, che non possono più essere commercializzate, saranno attribuite dallo Stato membro, e noi in Italia siamo particolarmente preoccupati perché dovremo condividere un modello Stato-Regioni che ci lascia molto preoccupati anche in termini di difesa del potenziale vitivinicolo. A volte l'Europa fa anche qualche errore, l'ha fatto in Italia nel settore bieticolo saccarifero, l'ha fatto con, in qualche, zucchero, con lo zucchero, certamente. Dobbiamo vedere come sistemare al meglio, diciamo così, questo obiettivo. La comunità che cosa vorrebbe? Che ci fosse in realtà la possibilità di controllare i livelli di crescita, e non è tanto un problema a livello europeo o di Stato membro, quanto di singola area territoriale o di singolo consorzio di tutela, visto che noi ragioniamo in quel modo. Quindi sarà una partita molto delicata, che se non riusciamo a gestire nel modo migliore rischia di depotenziare il potenziale, scusa il bisticcio di parole, vitivinicolo a livello nazionale. C'è un altro tema che mi interessa, su cui so che siete molto sensibili, e mi riferisco al chilometro zero. Allora, vediamo di capirci. Il chilometro zero, se uno lo vuole fare, va bene, vuole comprare a chilometro zero e mangiare, però a me sembra una follia, e lo dico in maniera molto netta, che un paese che vive di export, dove la voce della bilancia commerciale agroalimentare è la seconda dopo la meccanica, dove i successi che stiamo ottenendo grazie allo stile di vita italiano sono tutti legati all'agroalimentare, al vino, così si metta a fare il capofila del chilometro zero. Cioè, la dico con una battuta, se tutto il mondo si mettesse a fare il chilometro zero, noi non esportiamo più un grammo di niente, nel senso che ognuno si beve il suo vino, si mangia le sue mozzarelle, si mangia le sue cipolle di Tropea, i suoi pomodori pacchini, e noi non esportiamo più nulla. Ora, andare a ragionare sul chilometro zero quando parliamo di vino, che tutto può avere tranne che il chilometro zero, mi sembra una follia. Ma perché ci vogliamo fare male? C'era Tafazzi, che era il vecchio personaggio, se non ricordo male, di Aldo Giovanni e Giacomo, ma insomma, perché ci facciamo male da soli? Forse è un vizio dell'Italia, che è quella di non considerarsi il grande paese che è e di non pensare in grande, ma pensare sempre in maniera involuta. con una marginalizzazione, una visione anche romantica dell'agricoltura, e forse è lì il salto di qualità che dobbiamo fare. Penso che addirittura c'è chi vagheggia di ritornare al baratto, a me paiono questioni assolutamente lontane non solo dalla realtà ma dalla volontà della gente di creare un valore aggiunto vero e di proiettarsi in una dinamica internazionale. Noi pensiamo che il chilometro zero sia l'anticamera di una decrescita, molto infelice anche, come si usa dire in gergo, ma l'Italia, come lo dimostra questo Vinitaly, è un grande brand nel mondo e noi dobbiamo cogliere queste opportunità. Una battuta al volo, poi passo dopo la pubblicità agli altri due ospiti. Mi scrivono alcuni ascoltatori, ma sì, leviamo la burocrazia europea così poi ci berremo il vino al metanolo. Mi sa che non ha capito che in questo caso la burocrazia europea non è sui controlli sanitari, che sono strettissimi per fortuna nel vino, e devo dire che col senno di poi, magari ne parliamo un'altra volta, lo scandalo del metanolo ha fatto la fortuna del vino italiano, perché da allora i produttori hanno capito che dovevano puntare sulla qualità e non più sui bottiglioni, e diciamo il rinascimento del vino italiano nasce grazie a quella sberla. Però Presidente Guidi, chiariamo che non stiamo parlando dei controlli europei, stiamo parlando dell'Europa che vuole regolamentare quanta vite puoi mettere nei campi. Esattamente, è tutta un'altra partita. Si tratta di una valutazione sulla crescita della nostra capacità produttiva, ma tornando un attimo ai controlli, voglio ricordare che il vino è uno dei prodotti più controllati in assoluto. Credo siano 38 i controlli che vanno dalla vite ad una bottiglia. Sono troppi, sono ridondanti, non aggiungono niente a un regime di controllo. Il 99,6% delle produzioni italiane è assolutamente perfetto dal punto di vista della qualità e della solubilità. L'Italia è il paese più controllato, 1 miliardo di controlli all'anno. Vorremmo solo che fossero fatti in maniera più efficace e senza gravare troppo sul sistema delle imprese. Minuti di nuovo in diretta dal Vinitaly con Sebastiano Barisoni, padiglione 12, stand E5. Saremo in diretta anche domani, molti programmi della radio anche domani, già ieri. Alcuni dicevamo del vino, perché tutto va bene, ma i problemi esistono anche qui. Nel giorno in cui una buona notizia arriva per il mondo del vino, la Cina ha chiuso l'inchiesta anti-dumping sui produttori di vino europei. Era un'inchiesta molto pericolosa perché andava ad accusare i produttori di vino europei di ricevere aiuti di Stato, era in realtà una ritorsione verso altre iniziative europee, però l'ha chiusa, quindi l'ha annullata alla vigilia del viaggio in Europa del presidente Xi Jinping. Lamberto Gancia, come presidente di Federvini, insomma il tema è molto delicato, però i produttori di vino italiani, quelli diciamo di marchi anche più prestigiosi, ma non solo, si sono già mossi in questi anni verso l'estero. Ormai noi parliamo con produttori che hanno quote del 70, 85, 87% di export, praticamente produci in Italia ma ormai non vendi più qui. Però ci sono due piccoli problemi: dietro di loro ci sono migliaia di produttori che non hanno magari questa forza, e soprattutto io le chiedo quanto si può andare avanti anche in questo settore usando solo l'estero come mercato di sbocco. Ma in effetti è verissimo, il mercato nazionale è comunque un mercato importante. Per affermarsi all'estero spesso e volentieri bisogna avere un valore di marca, ma anche un valore di territorio, un valore di vitigno, un valore di annata, il rapporto qualità-prezzo, quindi tutti elementi che sono vincenti. È chiaro che chi ha una marca forte può organizzarsi meglio, può trovare distributori, importatori, e di fatto ha fatto il suo successo. I piccoli produttori, l'unica vera arma che hanno è allearsi per fare importazioni e trovare attività, fiere insieme. In questo devo dire che la comunità europea, con tutto il cambiamento che c'è stato con risorse dedicate alla promozione, soprattutto sui paesi terzi, ha di fatto attivato questa scintilla che si è tramutata poi in realtà concreta. Infatti i dati sono positivi, come avete visto. E i piccoli produttori hanno avuto delle ulteriori opportunità per risparmiare un po' di soldi nel viaggiare, nel, nel mettersi insieme, nel trovare spese di rappresentanza, spese di rappresentanza, spese di promozione, anche in quello che è fondamentale, cioè far sapere che cosa c'è dietro i nostri 521 tra DOC di OCG, quindi i territori che noi abbiamo. E spiegarlo costa fatica, costa impegno, costa investimenti, e questo è importante farlo, è l'opportunità primaria all'estero, ma anche l'incoming, perché è qui l'occasione importantissima dell'Expo. Incoming vuol dire portare i grandi buy, i grandi compratori, le grandi catene di distribuzione estere in Italia, fargli vedere in occasione del Vinitaly, è chiaro che è più facile, ma anche durante l'anno portare nei territori. Esatto, aprire le cantine, tutti i produttori hanno investito nelle loro cantine, ospitando, facendo anche agriturismi, anche piccoli alberghi o locande per ospitare e far apprezzare in più giorni il territorio. Pensate che ogni euro che viene investito in cantina ne genera 4 sul territorio, quindi questa è una cosa importantissima. Da qui la grande opportunità dell'Expo, che ci darà la possibilità non certo. solo di avere in un contenitore dei 20 milioni di turisti, ma anche sui territori nazionali. In un'ora siamo in tutta Italia con un aereo. È vero, perché Milano comunque ha tanti svantaggi certo. che ha, diciamo, è centrale sull'asse est-ovest, ma anche verso il centro. Che cosa chiedete al mondo della distribuzione? Ma noi da sempre, io poi sono sempre ai convegni che vengono fatti al Vinitaly, e constato che c'è sempre di più un lavoro di squadra che bisogna fare. La distribuzione ormai è una grossa vetrina dove i consumatori trovano di tutto e di più. Secondo me il challenge del futuro, quindi la sfida del futuro, è fare in modo anche negli scaffali di spiegare che cosa c'è dietro i prodotti, perché sennò il consumatore è perso. Questo è costoso, comporta investimenti, però all'estero viene fatto, ci sono casi in cui viene fatto, in cui io sono stato in Cina con la commissaria europea, con ministri, commissioni, dove è stata fatta education anche abbinato al food and wine, al vino e al cibo, e questa è la nostra grandissima opportunità. Allora, una distribuzione che non si limiti a mettere sugli scaffali i prodotti, ma lavori in simbiosi, senza, però insomma i francesi lo fanno da sempre, si può essere un po' nazionalisti anche noi, non è che nelle catene Auchan, visto che lei è anche direttore marketing Auchan o Carrefour, i prodotti francesi manchino, ci sono anche quelli nazionali, però allora riuscite ad avere un rapporto ancora più proattivo, mettiamola così, con il mondo della produzione, in questo caso vitivinicola? Sì, il nostro sforzo è di dare ai nostri clienti il maggior numero possibile di informazioni legate alla qualità, legate ai vitigni, quindi forse quello che dobbiamo fare è avere un assortimento degli scaffali un po' più semplici. Forse abbiamo anche fin troppe etichette a volte, quindi dobbiamo un po' semplificare, dobbiamo spiegare, dobbiamo fare assaggiare, e partendo sempre dal presupposto che il cliente cerca soprattutto il buon rapporto qualità-prezzo, quindi questo è un fattore indispensabile, perché ci sono chiaramente dei vini molto economici, ci sono dei vini molto cari, ma il vero cuore del mercato è intorno ai 4 euro, sì, quindi certo. su quella fascia noi dobbiamo fare una forte politica di sviluppo della conoscenza dei prodotti vitigno per vitigno. Lei non ha idea di quanti amici, amiche io abbia, che si interrogano, perché sanno che a me piace bere più che conoscere il vino, diciamo lo bevo, ma si interrogano sul a parità di prezzo, quindi non è un problema solo di potere d'acquisto. Lei citava giustamente la fascia è tra i 5 e i 7, 8 euro, quale vino comprare? Ora adesso io non lo posso sicuramente dire, però questo vuol dire che c'è un bisogno di informazione anche sul quantomeno la tipologia, e devo dire che i nostri scaffali della nostra distribuzione, chi più chi meno, ancora devono compiere 20 anni di ritardo rispetto a quello che vedi in Francia, dove ti viene spiegato addirittura in quale regione, che caratteristiche ha l'abbinamento, così uno che non è esperto di vino può andare non troppo alla cieca. Prego. Beh, su molti scaffali questo, devo dire onestamente, si trova, quindi la suddivisione per regione c'è sicuramente, molto spesso troviamo anche le indicazioni per l'abbinamento con i prodotti, certo, poi le insegne sono diverse, le catene sono diverse, quindi qua sta poi al cliente cercare di trovare l'insegna che soddisfa meglio questo. Però attraverso anche molte attività di degustazione, le famose feste del vino che tutte le aziende fanno sistematicamente, la presenza di sommelier nei punti vendita, questo sicuramente aiuta ad aumentare la consapevolezza di quello che si compra, sapendo che, come dicevo prima, i clienti sono molto attenti al rapporto soprattutto tra qualità e prezzo, soprattutto che alla ricerca di vini di alta gamma. Di Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal Vinitaly. Allora, la borsa adesso, c'è un ascoltatore che riempie di insulti gli ospiti che abbiamo avuti, gli dà dei mafiosi, poi dice, ma lo diceva anche, non so cosa, non ho capito molto, lo diceva anche il grande Giacomo Bologna, ma lei non sa nemmeno chi fosse. Caro Cristiano, un po' meno presunzione, non solo so chi è stato Giacomo Bologna, uno dei padri del vino piemontese, ma sono anche molto amico, se le può interessare, del figlio, e quindi Bricco dell'Uccellone e quant'altro, Bricco della Bigotta, magari forse lei deve aggiornarsi un po' di più, su, dai. Allora la borsa, prima di collegarci con le ultime novità della banca, novità, annunci della Banca Centrale Europea, meno 0,80% Milano, oggi la borsa la faccio io, dovete accontentarvi, la peggiore d'Europa però è Francoforte, meno 1,90%, adesso vi arriviamo, Parigi meno 1%, Milano meno 0,80%, Jux perde il 3,20%, il Monte dei Paschi il 2,20%, Popolare Emilia Romagna pure, Mediolanum meno 2,1%, Pirelli meno 2%, Finmeccanica meno 1,80%, come Prismian, Unicredit e anche Mediobanca, Ferragamo perde l'1,5%, Ubibank meno 1,40%, Intesa meno 1,30%, Campari meno 1,20% come GTEC. Bene invece Telecom Italia, oggi è l'ultimo giorno utile per segnalare le azioni da portare in assemblea, più 1,70%, bene anche la Pop Milano più 1,5%, Fiat più 0,70%, male Finmeccanica e Ansaldo STS, come citavamo, perché anche se hanno recuperato un po' nel finale, perché oggi General Electric ha escluso di voler comprare Ansaldo STS, bene Italcementi invece dopo la fusione tra Holcim e Lesage, società svizzera da una parte e francese dall'altro, attive nello stesso settore, quindi nel cemento. I migliori, Ambientesis ha ottenuto la commessa per l'area ex Fal, che guadagna il 19%, Mondo TV più 13%, Il Sole 24 Ore più 13% e Seat Pagine Gialle più 5,90%. La peggiore, Piaggio meno 5,20%, VM Capital meno 5,20% e BB Biotech meno 3,60%. Dicevo delle varie dichiarazioni che si sono susseguite oggi dalla Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ma anche Hans Widmann, consigliere della Banca Centrale e presidente della Bundesbank. Ci fa il punto il nostro Sergio Nava. Sergio, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Sì, una vera e propria polifonia, potremmo dire, oggi in occasione della presentazione del rapporto. Sì. Che è sempre meglio della cacofonia, dice. Sì, però insomma, non bisogna dire, non hanno molto chiarito le idee, se devo essere sincero, su cosa farà la Banca Centrale Europea, anche se Mario Draghi l'ha detto, siamo pronti a tutto. Draghi, partiamo da Draghi, perché ha scritto l'introduzione al rapporto 2013 dicendo è necessario che i governi procedano con le riforme dei mercati del lavoro e dei beni e servizi al fine di rafforzare la competitività, incrementare la crescita, creare opportunità di occupazione, e dice Draghi, questo è importante, l'aggiustamento dei conti pubblici deve essere favorevole alla crescita, importante questa parola, crescita. Invece passando alla polifonia, bisogna dire che non sono state proprio dichiarazioni tutte in sintonia quelle dei componenti del board della BCE. Partiamo da Yves Mersch, che è consigliere esecutivo lussemburghese, che a proposito dell'alleggerimento quantitativo, cioè l'acquisto di titoli da parte della BCE, ha detto resta un concetto teorico. Poi lo stesso Mersch ha aggiunto cartolarizzare i prestiti delle PMI per supportare l'economia reale in fretta è la cosa che va fatta al più presto. Poi c'è Novotny invece, che è anche lui nel board BCE, che invece frena, perché afferma non serve un intervento immediato della BCE per contrastare la bassa inflazione. Mentre lo citavi prima, Jens Weidmann, che è il presidente della Bundesbank, anche lui temporeggia per quanto riguarda gli scenari di lotta allo spettro deflazione, stiamo solo valutando scenari. Victor Constanzio, che è il vicepresidente BCE, membro portoghese del board, che invece è quello che forse poi alla fine sintetizza un po' tutto e dice aspettiamo cosa succede ad aprile per quanto riguarda l'inflazione, poi decideremo. Allora, si potrebbe dire con una battuta, ma col massimo rispetto, poche idee ma confuse, nel senso che tu hai ben delineato come le posizioni siano molto più eterogenee di quanto non sembri, siano un ventaglio di posizioni. Faccio notare che oggi il Fondo Monetario è tornato sui rischi di deflazione nell'area euro e ha invitato la Banca Centrale a tagliare i tassi di interesse, ma da lì si otterrà poco. Di nuovo in diretta dal Vinitaly, padiglione 12 e stand E5 con Radio 24 anche domani con molti programmi. Dicevamo di un problema storico del vino italiano, non solo del vino italiano, le dimensioni. Troppi produttori, troppo piccoli, e troppo piccoli anche per fare massa critica. Più volte abbiamo insistito in questi anni affinché arrivassero anche delle aggregazioni, delle fusioni, delle operazioni congiunte. Ne annunciamo una in diretta che riguarda da un lato il cosiddetto mondo delle bolle, e quindi l'exploit di questi anni si chiama in primo luogo Prosecco, ma non solo, ma riguarda due delle terre più vocate alle bolle, il Trentino con la Ferrari e il Prosecco, quindi la Valdobbiadene. Un'operazione finanziaria appunto che va ad aumentare le dimensioni e il capitale. Ne parliamo con i due protagonisti. Grazie a Matteo Lunelli della Ferrari per essere con noi. Buonasera Lunelli. Buonasera a tutti. E grazie anche a Gianluca Bisol del gruppo Bisol. Buonasera, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Ferrari vuol dire, per la parte che riguarda il vino vero e proprio, 50 milioni di euro di fatturato solo di Ferrari, con 4 milioni di bottiglie prodotte, mentre per quello che riguarda Bisol siamo intorno ai 3 milioni e 100 mila bottiglie di Prosecco con diverse marchi, per un totale di 28 milioni di euro di fatturato. Avete annunciato sostanzialmente il giorno prima che iniziasse il Vinitaly, se non ricordo male era sabato, vado a memoria, o forse venerdì sera, sabato mattina, ecco, tra venerdì e sabato, un'operazione importante che vi riguarda. Chi me la vuole raccontare? Lunelli, siete entrati e entrerete nel 50% della Bisol attraverso un aumento di capitale? Assolutamente, siamo entrati proprio venerdì, dove venerdì siamo andati dal notaio e il gruppo Lunelli ha acquisito il 50% della Bisol, che è una storica azienda di Valdobbiadene, produttrice di Prosecco Superiore, e questo per il gruppo Lunelli è stato un passo molto importante, una tappa importante di un progetto che mira a costruire un gruppo dell'eccellenza del bere italiano, un gruppo che intorno a Ferrari aggreghi dei marchi che condividono con Ferrari i valori della tradizione, della qualità e del legame con il territorio. Con questa acquisizione, oltretutto, il gruppo Lunelli si conferma come leader nelle bollicine italiane, e in questo momento riusciamo così a raccontare autorevolmente la diversità degli spumanti italiani, che sono frutti di territori e di metodi diversi. Cioè, se Ferrari è un Trento DOC ed è frutto di un'agricoltura di montagna del Trentino, metodo classico, diciamo Ferrari è l'icona del metodo classico italiano, Bisol è un grande marchio del Prosecco Superiore, quindi espressione di quell'unicità del territorio di Valdobbiadene. Quanto vale l'operazione? Allora, i termini economici noi non li abbiamo dichiarati, questa è un'operazione comunque in aumento di capitale. Una prima volta. Cioè, questa non li abbiamo dichiarati, ma pensa che citerei già l'anno scorso tu mi hai fatto diverse domande e mi chiedevi, io ti avevo anticipato che stavamo guardando a diverse opportunità e che stavamo cercando un marchio che soddisfasse le caratteristiche che volevamo, e allora forse sei stata la prima persona a cui avevo anticipato questa intenzione di guardare a delle acquisizioni nell'area, ecco, del Prosecco. Perché sarebbe cortese a questo punto darci anche un'anticipazione sull'operazione in quanto a valore. 1 milione, 20 milioni. Questa è oltretutto un'operazione articolata, perché la famiglia Bisol rimane proprietaria dei vigneti, quindi c'è un accordo molto articolato che prevede la fornitura delle uve nei prossimi anni. In questo momento c'è un'iniezione di capitale nell'azienda tramite aumento di capitale che serve per finanziare un piano di sviluppo. Ma ciò che secondo me è più significativo è il segnale che qui si dà, cioè la famiglia Bisol in questo senso ha dimostrato grande fiducia nei nostri confronti, dopo generazioni di legame con questa azienda ha voluto aprire le porte a noi, in questo senso aprendosi a un gioco di squadra. Oggi il vino italiano, e tu lo sai, è comunque un mercato, un settore molto frammentato. Io credo che queste aggregazioni siano opportune se e quando riescono a dare massa critica, ma mantenendo le radici e il legame con il territorio. Questa formula che abbiamo trovato credo che combini le due cose, dà la possibilità di unire le forze, il nostro gruppo con l'aggiunta di Bisol alla fine quasi sfiorerà gli 80 milioni di euro, però si mantiene con la presenza della famiglia Bisol, di Gianluca e Desiderio Bisol all'interno dell'azienda, sempre alla guida dell'azienda, si mantiene il legame con la tradizione e il legame con il territorio. Chiare le motivazioni, se ho ben capito, insomma, da parte della Ferrari, quindi di Matteo Lunelli, andare a diversificare anche la produzione di bolle. Mi interessa, Bisol, il ragionamento che avete fatto voi invece. perché io saluto sempre con piacere operazioni di aggregazione, fusione, aumento di capitale, perché è un problema cronico del nostro modello di impresa anche nel settore vitivinicolo. Ma che cosa vi ha spinto a far entrare con una quota così rilevante come il 50% un gruppo come Ferrari? Beh, nasce tutto tra l'altro qui a Radio 24, dateci le royalties. Nasce qui perché proprio quel giorno abbiamo fatto un ragionamento intorno alla necessità di essere massa critica all'estero. Noi esportiamo in 67 paesi del mondo, siamo cresciuti negli ultimi 25 anni mai meno del 10% l'anno, qualche anno anche il 30%. È stata una corsa davvero molto faticosa quella che è stata fatta, ma con grandi successi. Abbiamo detto, io e mio fratello Desiderio, continuiamo a correre da soli o cerchiamo energie, sinergie, cerchiamo collaborazioni? E abbiamo pensato che era il momento di fare i prossimi 20 anni di corsa insieme a qualcun altro. Ma con chi? Con chi si fa una corsa se non con qualcuno che si stima? E la famiglia Lunelli era in cima alla lista delle persone che stimavano. Qual è la resistenza più forte che uno deve superare? Di carattere, diciamo, economico-manageriale o di carattere psicologico? Ma indubbiamente entrambe, perché per noi sarà comunque anche una scuola entrare in grande sintonia e organizzazione con il gruppo Lunelli, perché loro sono molto più organizzati di noi e quindi sarà anche una scuola di management. Però anche psicologicamente ovviamente si tratta di capire quanto vale messo nel piatto l'azienda familiare e quanto vale l'azienda organizzata e managerializzata. Diciamo che questo ragionamento l'abbiamo fatto, abbiamo anche frequentato negli ultimi anni con mio fratello diversi corsi di gestione delle imprese familiari con John Davis, per esempio, che è un noto guru americano sulle imprese familiari, e l'esperienza nel mondo delle aziende familiari è fallimentare nel medio termine, per cui abbiamo optato per qualsiasi mondo, e quindi abbiamo optato per dare garanzia di successo del nostro marchio, dello sforzo delle generazioni precedenti, in un'ottica ormai di mercato globale, quindi cambiando completamente gli scenari, appoggiandoci all'esperienza e all'energia di un gruppo che stimiamo e che ha già fatto questo passo, ha unito alla capacità familiare anche la managerialità. Un'ultima domanda rapidamente: da dove arrivano, la facciamo a tutti in questi giorni di Vinitaly, i segnali più interessanti sul fronte export? Tanto sappiamo che in Italia i consumi sono in calo o stagnanti. Ma io credo che per quanto riguarda le bollicine, ad esempio, gli Stati Uniti rimangono un mercato di riferimento per il vino italiano. Noi come Ferrari crediamo di avere ancora grandi prospettive di crescita. C'è secondo me uno sforzo da fare proprio relativo a quello che dicevamo prima, cioè dobbiamo ancora secondo me raccontare la diversità delle bollicine italiane. In particolare come Ferrari noi e il Trento DOC, e come Trento DOC dobbiamo in qualche modo fare lo sforzo di educare il consumatore americano a quello che è l'eccellenza del nostro territorio. Oltre a questo, sicuramente l'Asia è il territorio da scoprire, è il territorio in cui investire, è sicuramente il più difficile da affrontare. Noi abbiamo una presenza molto, molto buona e molto importante in Giappone, abbiamo iniziato a lavorare abbastanza bene in Cina ed è l'area in cui stiamo investendo. I nostri sono stati da poco a Chengdu, proprio appena prima con di Vinitaly, con i Vinitaly, e questo è stato un altro segnale di quanto è l'interesse per il Chengdu sarebbe un po' il Vinitaly cinese. Bisol? Noi continuiamo a spingere all'estero, tanto che anche lo scorso anno siamo cresciuti del 34% all'estero, e per noi è diventato nel 2013 storicamente il primo mercato UK, quindi l'Inghilterra, che è un paese che è sempre stato innamorato delle bollicine, è il primo mercato di sbocco per lo champagne. Noi cerchiamo di capire dove vende lo champagne e andiamo dietro a quel tipo di mercati, e quindi c'è ancora tanto da fare, sono d'accordo con Matteo, negli Stati Uniti, in Asia, ma anche tanto da fare anche nel mercato europeo, dove appunto c'è un'abitudine a bere spumante. Allora, in bocca al lupo per questa nuova esperienza, anche perché visto che l'avete battezzata Radio 24 ci sentiamo anche in qualche modo corresponsabili, ma non degli esiti se negativi, solo degli esiti se positivi. Grazie non avere dubbi a Matteo Lunelli, mister legato della Ferrari, e grazie a Gianluca Bisol, appunto della Bisol, in cui la Ferrari, ripeto, entrerà al termine di questa operazione con il 50% del capitale. Grazie e buona serata. Grazie. Di nuovo in diretta dal Vin Italy, ultima parte di questa giornata di Focus Economia. Parliamo delle tendenze del vino italiano, tendenze registrate da chi ha diversificato non solo sui mercati esteri ma anche sul tipo di produzione a livello nazionale. E quindi grazie da un lato a Marilisa Allegrini. Buonasera. E dall'altra con Guido Fronari, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, perché vi abbiamo messo assieme? Perché voi avete diversificato, diciamo così, si direbbe in linguaggio finanziario, le produzioni. Nel caso di Marilisa Allegrini sono 4 milioni di bottiglie per 27 milioni di euro di fatturato, però diversificate tra Amarone, Brunello e Bolgheri, quindi la patria, per chi non lo sapesse, Bolgheri dei cosiddetti Super Toscan, dei vini più prestigiosi italiani, o meglio più conosciuti italiani all'estero. E dall'altra parte anche Guido Fronari, Barolo, Brunello e Bolgheri, anche qui una diversificazione tra area piemontese e area toscana. Marilisa Allegrini, al di là del sorpasso spagnolo che fa più notizia come numeri ma non in valore, la necessità di diversificare su prodotti e nomi conosciutissimi all'estero da che cosa deriva? Perché uno potrebbe anche dire che è tale il successo dell'Amarone o è tale il successo del Brunello che tutto l'investimento potrebbe essere concentrato anche solo in una di queste due o tre produzioni, visto che voi siete anche a Bolgheri. Beh, questo è un fatto teorico, perché in realtà è difficile ampliare le proprietà in Valpolicella, perché la Valpolicella è una zona piuttosto limitata, sono 4.000 ettari nella zona classica e 3.000 in quella allargata, quindi con una miriade di produttori, e quindi per noi diversificare è stato andare in Toscana, diciamo, è stato proprio una scelta, è stata una scelta legata al fatto che ci piaceva sperimentare qualcosa di diverso al di fuori della Valpolicella, e soprattutto era interessante investire in due zone ad alto potenziale qualitativo, perché se noi menzioniamo 5-6 grandi vini italiani, queste due zone, Bolgheri e Montalcino, ci stanno. Fronari, anche per lei la stessa domanda, nel senso che uno va a diversificare a livello regionale, però voi avete fatto una scelta, dico voi perché in questo siete abbastanza simili, su prodotti già molto conosciuti, non siete andati a esplorare nuovi territori del paese. Beh, il caso mio è un caso abbastanza particolare, perché come il mio nome vi dirà, io vengo da un'azienda di lunga tradizione familiare, e quando nel 2001 ho lasciato l'azienda di famiglia ho deciso di iniziare questa mia attività, ho deciso di investire in quello che sono i più grossi, i più grandi, con l'Amarone anche, vini rossi italiani. E la zona del Barolo, che è la regina della produzione del Nebbiolo, e il Montalcino, dove si producono i grandi sangiovesi, e Bolgheri, che è il Medoc, possiamo definire, del vino italiano. E queste tre perle fanno sì che noi, soprattutto sui mercati internazionali, possiamo offrire le eccellenze del vino italiano. Nel 2001-2005, quando io ho fatto questi investimenti, ero in controtendenza rispetto a quello che era il trend all'epoca, che era quello di investire nei nuovi territori, che in Italia ce ne sono stati tanti. Oggi, in una situazione di crisi dei consumi di vino italiano, devo dire che i grandi territori hanno tenuto, si distinguono, e soprattutto sono molto interessanti nel processo di allargamento della distribuzione su tutti quei paesi nuovi. Nei nuovi paesi che sono diventati consumatori di vino a livello internazionale, le perle, diciamo, sono i grandi territori italiani, che per me sono nei vini rossi Barolo, Brunello, Bolgheri, Amarone, nelle bollicine la Francia Corta, e poi i grandi bianchi dell'Alto Adige, del Friuli. Ecco, qui stavamo già toccando un secondo aspetto che mi interessa, ossia da dove arriva la domanda più interessante nei mercati esteri, ma che cosa sta cambiando nella distribuzione? Perché noi sappiamo che uno dei grossi problemi del vino italiano è sempre stato una catena distributiva che poteva sì contare sulla ristorazione, ma non su grandi catene commerciali come nel caso francese, e dall'altro però anche una difficoltà quando non hai dimensioni particolarmente grandi nel gestire il distributore. Allegrini, da dove sono arrivate dove è arrivata la domanda più forte in quest'ultimo anno, immagino non dai consumi interni italiani, e voi avete anche operato un cambio di distributore proprio negli Stati Uniti, vi siete rivolti adesso a forse il più grosso distributore che c'è negli Stati Uniti, che se non ricordo male è Gallo. Come mai questo cambio, e comunque anche da dove arrivano i segnali più interessanti sul fronte dell'export? Allora, diciamo che i nuovi mercati, Russia, Cina, in parte altri mercati asiatici che possono essere considerati minori, si sta sviluppando bene una rete di vendita con importatori qualificati. Comunque gli Stati Uniti rimangono ancora il paese più importante per l'export e il fatto di aver cambiato importatore è legato a una nuova politica distributiva. Gli Stati Uniti sono un mercato molto complesso, i distributori sono passati da 7.000 a 700 in pochi anni, quindi chiaramente chi ha una forza preponderante nella distribuzione avrà un grande futuro. E l'azienda Gallo ha iniziato un progetto secondo noi interessante, ed è stato quello che ci ha spinto in quella direzione, di cominciare nel loro interno una luxury division, il che vuol dire che anche chi fa mass market capisce che è importante avere qualità, fare qualità, ed è importante segnare una strada nuova, perché è proprio questo settore che è quello che dà la possibilità di crescere nel futuro e anche di dare una buona remunerazione. I nostri investimenti sono importanti, quindi abbiamo bisogno di avere una certezza di una remunerazione. Beh, interessante appunto che Gallo, che è il primo penso distributore negli Stati Uniti, crei al suo interno una distribuzione anche per i prodotti di fascia alta e di lusso. Folonari, anche per lei il ruolo della catena distributiva, lei tra l'altro è anche importatore di vini, esatto, di champagne, esatto, dall'estero e dalla Francia soprattutto, e il ruolo della catena distributiva per voi e soprattutto da dove sono arrivate le domande e i segnali più interessanti? Allora, secondo me l'importante è fare un distinguo tra la situazione distributiva in Italia e nel resto del mondo. Allora, i nostri vini, sia i nostri che quelli di Marilisa, stiamo parlando oggi di vini di gamma medio-alta, se non addirittura alta, rispetto al consumo, al valore medio del consumo del vino italiano. Allora, in Italia negli ultimi anni si è vissuta una situazione molto difficile, dovuta ad un'offerta molto maggiore rispetto alla domanda. Noi parliamo del canale Horeca, nel caso mio specifico noi non facciamo grande distribuzione. E soprattutto una situazione viziata da un problema grossissimo che lei Barisoni, io l'ascolto, ne ha parlato tante volte, che è quella del credito. Noi ci siamo trovati all'interno di un settore che è stato completamente drenato di liquidità, per cui tutta la filiera del credito e la gestione del credito da parte delle aziende è stata molto difficoltosa. Questo ha portato le aziende che già lo facevano a farlo sempre di più e le aziende che lo facevano meno a spingere verso l'export. Verso l'export c'è una situazione completamente diversa. Innanzitutto tendenzialmente si lavora con operatori qualificati e dopo un operatore o al massimo due per paese. Questo ti permette di analizzare l'operatore e scegliere l'operatore che sia anche finanziariamente solido. E soprattutto poi di avere una politica di sviluppo che mano a mano porta dei risultati. Qual è la fotografia all'export? Sicuramente oggi, per quanto ci riguarda, i paesi che tengono e crescono in volumi sono sempre i paesi storici. I paesi storici come gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera, l'Inghilterra, dove il lifestyle italiano è divenuto un modo di vivere di moda. Noi ricordiamoci che lo sviluppo del vino italiano nel mondo è avvenuto dagli anni 80 in poi grazie alla qualificazione della cucina e della ristorazione italiana, che da cucina di emigranti è diventata cucina di lusso, e la ristorazione, bisogna riconoscerglielo, ha fatto sì che poi trainasse il made in Italy, per cui il vino, il parmigiano, l'olio, la mozzarella, il lifestyle e tutto quanto. Per cui diciamo che i volumi sono ancora concentrati lì. Poi ci sono tantissimi paesi nuovi che si affacciano ai prodotti italiani, tutti con grande curiosità, e questo è molto importante, alcuni con più o meno come si può dire, trend di crescita. La Russia è uno di questi, la Cina per quanto ci riguarda sta andando bene, però sono sempre mercati embrionali. poi arrivano mercati che noi non ci saremmo mai aspettati, il Kazakistan, l'Indonesia, la Thailandia, la Lituania, la Polonia, ti cercano importatori. E a questo punto perché vanno i vini con denominazioni di origine controllate e garantite importanti? Perché nel mondo, prima di andare a cercare le novità, questi paesi cercano le perle, che sono, come abbiamo detto prima, i vini in cui noi lavoriamo. E questo, c'è una curiosità, starà poi a noi italiani, produttori italiani, essere capaci di consolidare questi mercati e di farli crescere come sono cresciuti i paesi classici. Grazie allora Marilisa Allegrini, a Guido Folonari, un ringraziamento anche a Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Paolo Corleoni per l'assistenza in regia e Davide Cioccia per l'assistenza tecnica. Focus Economia, così come altri programmi di Radio 24, saranno in diretta anche domani dal Vinitaly.